peso vedi il sole, respiri l'aria, raccogli un fiore. Che cosa eri? Non lo sai più. Un viale lungo davanti a te, alberi immensi sul tuo cammino, una ragione per vivere c'è. Se ne va, i tuoi ricordi sono lontani. Cos'è la neve? Non lo sai più. Si apre una porta davanti a te. Il sole è alto, vieni con noi. Una ragione per vivere.